il falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, e ti avrò. A volare non sono solo quelli che solcano i cieli, si può volare anche stando in mezzo al mare. È la storia di Bernard Moitessier, un navigatore instancabile, forse il più amato del Novecento. Attraverso le pagine tratte dai diari di bordo e le riflessioni che riporta nei suoi libri, conosceremo un uomo che ha sfidato se stesso e ha sempre creduto in un'alleanza mistica con la natura e le creature marine. L'acqua è il suo elemento. Da bambino passava ore sulla sua giunca in Indocina. Da ragazzo si è avventurato per l'Oceano Indiano. Il suo viaggio di nozze è stato per mare e da solo ha fatto il giro del mondo, partecipando a modo suo a una regata entrata nella leggenda, la Golden Globe Race. Una vita con il mare. E nel suo incontro con l'assoluto ha scoperto se stesso. La scia si allunga. Di giorno bianca e densa di vita, di notte luminosa come una chioma di sogni e di stelle. L'acqua scorre sulla carena e romba, canta, sussurra secondo il vento, secondo il cielo, secondo il tramonto che sia stato rosso o grigio. Joshua scende a 7 nodi verso sud, nell'Aliseo. Vento, mare, barche e vele formano un tutto unico, compatto e diffuso, senza principio né fine, che è parte e tutto dell'universo. Di questo mio universo. Guardo il tramonto, respiro l'aria dell'alto mare e il mio essere si schiude. La mia gioia vola così in alto che nulla può raggiungerla. In quanto alle cose che talvolta mi turbavano, non hanno alcun peso di fronte all'immensità di una scia vicinissima al cielo e colma del vento marino, che è immune da moventi comuni e meschini. Siamo sulla scia di Joshua, l'imbarcazione lunga 12 metri di Bernard Moitessier. E questo è l'inizio di un libro che racconta un'impresa epica di un uomo straordinario. Un uomo che a 43 anni decide di partecipare a una gara, la Golden Globe del 1968. La Golden Globe Race è una gara organizzata dal Sunday Times in anni di cambiamento, dove la vela è ancora uno sport d'élite, ma non esistono ancora radar, cellulari, abbigliamenti tecnici. Si parla di navigare il globo in solitario, senza scalo e senza assistenza, passando dai tre capi, capo di Buona Speranza in Sudafrica, capo Lewin in Australia e capo Horn in Sud America. Chi partecipa può scegliere il porto inglese da cui partire, che deve essere lo stesso in cui arriverà. Lungo le pagine del libro La lunga rotta assistiamo al diario personale di Bernard Moitessier, uno dei 9 partecipanti all'impresa. Siamo accanto a lui nella sua barca, pronta a solcare le onde in pieno oceano. Siamo a Plymouth, in Inghilterra. È il 22 agosto 1968. A terra commossa c'è la moglie Françoise, con cui lui pochi anni prima ha fatto 14.000 miglia senza scalo da Tahiti ad Alicante. Si trattava di un viaggio di nozze, decisamente speciale, un'impresa velica senza pari, ma di questo parleremo più avanti. Torniamo a Plymouth. Mi ricordo il faccino di Françoise che si sforzava invano di trattenere le lacrime e io seccato di vederla piangere. Ma se ti dico che ci rivedremo presto, che cosa sono 8 o 9 mesi in una vita? Avevo un bisogno assoluto di ritrovare il soffio dell'alto mare. Al mondo non c'eravamo più che il Joshua e io. Il resto non esisteva, mai era esistito. Non si chiede a un gabbiano addomesticato perché ogni tanto provi il bisogno di sparire verso il mare aperto. Ci va e basta. È una cosa semplice come un raggio di sole, normale come l'azzurro del cielo. Al primo viramento di bordo, appena girato l'angolo del pontile, teseremo a ferro i verricelli di Scott. Già l'acqua mormora sulla carena mentre il Joshua prende abbrivio e comincia a vivere. Chi non sa che un veliero è una creatura viva non capirà mai niente della barca e del mare. Per quel viaggio sfida ai confini con il mondo partono un altro francese, 6 inglesi e il 36enne italiano Alex Carozzo, che sarà il terzo in ordine di tempo a lasciare la regata al largo del Portogallo colpito da un'ulcera allo stomaco. Non è semplice fare una regata del genere. Il premio messo in palio dal Sunday Times è di 5.000 sterline per il viaggio più veloce e un trofeo d'oro per il primo arrivato. Ma Bernardo, a differenza degli altri compagni, non parte spinto dall'ambizione o dal desiderio di soldi e di fama. Parte per il suo innato spirito di avventura. Ma non è così per tutti. C'è un altro velista inglese, dilettante ma non troppo, a 36 anni, Donald Crowhurst si chiama. Lui ha 4 figli e quel premio per lui sarebbe la salvezza. Donald fa il tecnico a una piccola fabbrica di apparecchi di precisione per il mare, ma è sull'orlo del baratro economico, è indebitato fino al collo. Tenta il tutto per tutto, però con il mare non si scherza e lui capisce in fretta di non riuscire a affrontare la regata. Così inizia a fornire false rotte, coordinate sbagliate, imbroglia. I diari rinvenuti nella cabina sveleranno che in realtà non si è mai allontanato dall'Atlantico. Terminerà le sue trasmissioni radio alla fine del giugno 69 e il suo trimarano verrà ritrovato alla deriva alle isole Bermuda. Il suo trucco non è riuscito, la sua scomparsa ha ispirato il film documentario Deepwater, La folle regata, che raccoglie testimonianze d'epoca e filmati di repertorio. Era un'impresa fino allora mai tentata dall'uomo. Primo, non sapevamo se la barca avrebbe resistito. E secondo, non sapevamo se l'uomo avrebbe resistito. Si fecero avanti navigatori esperti. E poi c'era l'uomo misterioso, Don Crowhurst. Navigare in solitario, mette l'uomo parecchio sotto pressione. Mesi di solitudine. I psichiatri dicevano che un essere umano sarebbe impazzito in quell'impresa. Cominciò ad asserire di aver navigato più di quanto non avesse fatto in realtà. Devo impegnarmi per essere tanto veloce da vincere la gara. Penso che il falso diario di bordo, seguo la mia rotta, sia iniziato come un gioco verso l'appuntamento con Cap Horn. Poi però il gioco si ingigantì. Mano a mano si andava compromettendo. Quel gioco fu la sua trappola. Non aveva più pace, né avrebbe potuto ritirarsi. Don Crowhurst navigò al di là dell'orizzonte, andando incontro all'oblio. È una regata che mette in gioco le vite dei velisti, che ne mette a nudo il carattere e la forza. Bernard ancora non sa che quella pazza regata a cui ha partecipato senza nemmeno esserne convinto, per lui sarà un momento di svolta. Il falco e il gabbiano. Abbiamo lasciato Bernard Moitessier alle prese con la sua regata, col suo giro del mondo. La competizione è durissima per tutti. Vedrà ancora 5 ritiri prima di riuscire a doppiare il primo capo, il capo di Buona Speranza. La spedizione è già totalmente decimata, ma Bernard è di buon umore, non sa come stia andando la gara per i suoi compagni. Non ci sono radio a bordo. A volte si domanda cosa staranno facendo gli altri velisti, ma poi prosegue regolarmente. Il viaggio fila liscio. Joshua non è solo una barca, è una creatura vivente, è leale, è una compagna superba e fidata che rispetta il patto fatto con il suo capitano. Dammi il vento e ti darò miglia. Passano i giorni, passano i mesi. Bernard è sempre più magro, ma in ottima salute. Ha indosso poco e niente, vive di caffè e si prepara delle sigarette. Trascorre il tempo a osservare, a conoscere il mare e le sue onde. I delfini, gli squali, gli uccelli d'alto mare e i pesci volanti. Ho una predilezione per il pesce volante. Come gusto somiglia alla sardina, ma è più fine, più profumato. Con Joshua il tempo scorre in modo diverso. Attraverso le parole del suo diario di bordo assistiamo a una lenta trasformazione. È un percorso spirituale e esistenziale che porterà Bernard a sentirsi sempre più lontano dal mondo civilizzato lasciato a Plymouth. La Golden Globe Race è in qualche modo sempre più lontana. Dovrei dormire di più, a pezzi e bocconi. Non ci sarebbe difficoltà. Dovrei nutrirmi in modo più serio. Mi lascio andare troppo volentieri a vivere di tabacco e di caffè. Mi sostento spilluzzicando. Dovrei trovare il tempo per delle belle fette di sonno, per dei veri pasti abbondanti. Su una barca non c'è molto da fare, neanche per montare il capo di Buona Speranza, neanche per montare il capo Horn, ma c'è molto da sentire nelle acque di un grande capo. E ciò richiede tutto il tempo di cui si dispone. Allora si dimentica se stessi, si dimentica tutto, per vedere soltanto il gioco della barca col mare, il gioco del mare intorno alla barca, lasciando da parte tutto ciò che non è essenziale al gioco nel presente immediato. Bisogna stare attenti a non andare più in là del necessario, fino in fondo al gioco. Questo è il difficile. Vedete, si parla più di mare, di sensazioni. Bernard non sta più parlando di una gara. Eppure è in mezzo all'oceano, doppia all'ultimo dei tre capi, capo Horn, gli manca poco per vincere il premio messo in palio dal Sunday Time. A casa lo sta aspettando la moglie Françoise per festeggiare. Ma Bernard è cambiato profondamente. Non tornerà indietro perché questo è il suo colpo d'ala. È il suo grande rifiuto. Ho rimesso la prua verso il Pacifico. Non ne posso più dei falsi dei dell'Occidente, sempre in agguato come ragni, che ci mangiano il fegato, ci succhiano il midollo. Esporgo querela contro il mondo moderno. Il mostro è lui. Distrugge la nostra terra, calpesta l'anima degli uomini. Dio ha creato il mare e l'ha pitturato d'azzurro affinché sopra al mare si stia bene. E sono qui, in pace, con la parola puntata ad Oriente, mentre potrei trovarmi a fare rotta a Nord, con un dramma nell'intimo. La sua svolta interiore diventa una svolta pubblica perché Moitessier decide di abbandonare la regata e continuare a navigare verso Oriente. Supera per la seconda volta il capo di Buona Speranza, dove lancia con una fionda costruita da lui stesso bobine di filmati, lettere per i suoi cari e un messaggio per il Sunday Times che recita così: «Caro Robert, capo Horn è stato doppiato il 5 febbraio e siamo al 18 marzo. Continuo senza scalo verso le isole del Pacifico perché in mare sono felice e forse anche per salvarmi l'anima. Viaggia verso Tahiti, un altro mezzo giro del mondo senza avversari, senza tempi da rispettare. Da solo. Tutto è in ordine. Sento in me una gran pace, una gran forza. Sono libero. Libero come non lo sono mai stato. Unito a tutti e solo di fronte al destino. La Golden Globe viene vinta dal 28enne Robin Knox Johnston. È l'unico concorrente, nonché il primo uomo, a completare il giro del mondo in barca a vela, in solitario e senza scali, in 313 giorni, escluso Bernard naturalmente. Bene, Knox Johnston dona le 5.000 sterline del premio alla famiglia dello sciagurato Crowhurst. I'll make the best of it. Take all you want to. mentre la vita in quello che Bernard chiama il mondo occidentale va avanti, lui prosegue il suo viaggio. Dopo 10 mesi ha finalmente una meta. E il Joshua il 21 giugno 1969 fa scalo in Polinesia, che diventa il suo nuovo mondo. Ha fatto un giro del mondo e mezzo, ha macinato 37.455 miglia, quasi 70.000 chilometri, e si ferma. Rimette a posto le pagine del suo diario di bordo e dà vita a Lunga Rotta, forse il suo libro più bello. È un puro idealista e non ha il becco di un quattrino, eppure Moët Tessier decide di destinare i proventi della pubblicazione avvenuta nel 71 alla ricostruzione della Terra. Scriverà il suo quarto e ultimo libro, Tamata e l'Alleanza, dove Tamata è il nome della sua nuova barca e significa tentare in lingua polinesiana. Sostenitore della battaglia ecologista, vivrà altre fasi della sua vita, prima in un piccolo atollo polinesiano con Ileana, la sua nuova compagna, e il figlio Stefan, nato nel 71, e poi con un'altra donna ancora, Véronique, che lo vedrà chiudere gli occhi per sempre a Parigi il 16 giugno 1994. Il Falco e il Gabbiano torna tra poco qui su Radio 24. Voglio dire, avevo paura, certo, ma continuavo a pensare, questa è la verità. Intrecci, passioni, avventure, amori. Non ti lascio solo, ma oggi credo che tu abbia un appuntamento. Serri, portamelo qui! Per te 1 milione di volte! Audiogrammi, in radio come al cinema, torna con nuove storie e nuove emozioni. Questo non è un buco. E che cos'è? Il posto dove si sta quando si muore. La domenica sera, alle 20:10. Pensiamo sempre che la fortuna sia ciò che non si ha. Audiogrammi, le più belle storie dei film, raccontate in radio. Anche in podcast su radio24.it. Il Falco e il Gabbiano. Abbiamo raccontato la storia di Bernard Moët Tessier, un navigatore solitario, un uomo legato al mare, alla natura, che fa il giro del mondo e poco prima di vincere il premio per il Golden Globe, per la regata a cui partecipa, decide di andare in un'altra direzione perché il premio più ambito è quello che lui sta vincendo interiormente. Bernard ha fatto un giro e mezzo del mondo in solitario. Racconta e scrive di aver trovato un'intesa perfetta con mare, natura e creature marine. Ma quel legame così forte, quale origine può avere? Forse, e sto dicendo forse, tutto è cominciato negli anni lontani della sua infanzia, trascorsa felicemente in Indocina, l'attuale Vietnam. Lui è nato nel 1925 a Saigon e ha trascorso i suoi anni di bambino in una terra isolata, lontana. Lì, nella foresta, lui caccia scalzo e nel mare che Bernard sviluppa il suo naturale istinto a creare un'alleanza con la natura. Il suo corpo è magro e muscoloso e la sua mente è avida di letture. Legge i classici del mare e i racconti di viaggio, ama le sue giunche con cui si muove nel Golfo del Siam. E appena può, stiamo nel 47, lui ha solo 22 anni, lascia il lavoro con il padre e lascia soprattutto la terraferma. Diviene un vagabondo del mare, titolo poi del suo primo libro di ricordi. Dopo poco, a solo 27 anni, parte da Singapore con la giunca Marie Thérèse. Lui cura ogni dettaglio del viaggio, ma non è un vero esperto di nautica. Di certo c'è che lui sente uno speciale legame con la sua giunca, che casualmente ha il nome di una ragazza di cui si è innamorato, la prima di tante. E così inizia l'avventura. La stretta unione dell'uomo con la barca si era stabilita progressivamente, per gradi. Quando ci incontrammo la prima volta, fui amorosamente colpito da quella bella giunca del Golfo di Siam. Ma perché la barca e l'uomo diventassero veramente una cosa sola, ci volle, io penso, il monsone dell'Oceano Indiano, dove eravamo andati a perderci ingenuamente per vedere se era vero. Così, come per gioco. Ebbene, era proprio vero. Il monsone non scherzava. Fu un vero inferno per l'unità barca-uomo che già si era formata. Un inferno in mezzo al quale il pensiero che qualche cosa d'altro potesse esistere fuori di esso non sfiorava la mente. L'aria è il suo mare e Marie Therese è il suo nido. Ma Bernard è giovane, fa errori grossolani con le carte e le mappe e così si incaglia malamente ed è costretto a fermarsi. Ma Moitessier è un tipo da non arrendersi e ricomincia con quel poco che ha. Si trasferisce alle Mauritius, trova subito un lavoro, per una strana coincidenza del caso, come segretario del console francese. Quell'uomo non sarà solo il suo capo, ma anche un amico che gli consente di mettere a punto ed equipaggiare una nuova giunca più robusta, Marie Therese II. Quando si sente pronto per ripartire, si dimette e sale in barca per risalire l'Atlantico. The feeling you have when you are alone at sea. La sensazione che hai quando sei da solo per mare, per qualunque persona, è che niente è dato. E quindi tu devi stare sempre allerta. È come quando sei in balia delle correnti. Devi affrontare un sacco di cose diverse e devi aggrapparti alla realtà. Durante il viaggio si ferma in Sudafrica, a Durban e St. Elizabeth, dove ripara barche e mette via qualche soldo che servirà a riempire la cambusa di nuovo, questa volta con rifornimenti per un anno. Riso, cereali secchi, scatolame vario e naturalmente gli immancabili caffè e tabacco per le sigarette. Perderà anche questa barca per un colpo di sonno, dopo ore e ore di veglia. Ora però Bernard è certo che la barca non è solo un mezzo per arrivare da qualche parte, ma è sinonimo stesso di libertà. Si ritrova senza soldi, come sempre, e con pochi stracci addosso, e pensa che l'unica soluzione sia quella di andare in Francia, il paese natio dei suoi genitori. Riesce a imbarcarsi su un cargo norvegese e quando si trova in terra francese succede qualcosa che gli cambierà la vita. È la primavera del 1958. Trova un impiego come rappresentante di medicinali per una casa farmaceutica e intanto frequenta una donna, Françoise, già sposata e con tre figli. È esile e vivace, vive a Marsiglia e suo nonno andava a scuola con il nonno di Bernard. Sono amici di famiglia. In quel periodo di terraferma, Bernard dà vita a Joshua, un cache molto robusto, disegnato per lui da un geniale architetto dal nome Jean Nocker e sostenuto da Jean Tricard, un imprenditore che dopo aver letto il suo primo libro lo ammira e vuole supportarlo. Perché Joshua? Perché Françoise si oppone al Marie Therese III, perché è gelosa, porta il nome di un'altra donna e forse perché, secondo lei, porta anche sfortuna. E perché Joshua? Perché in onore di un grandissimo navigatore, Joshua Slocum, navigatore statunitense che fu il primo a effettuare la circumnavigazione del globo in solitario nel 1895 in 3 anni e 2 mesi. Much confusion, disillusion, all around me. I talk to the wind. My words are all carried away. I talk to the wind. The wind does not hear. Il 24 dicembre 1960 Bernard e Françoise si sposano. Organizzano un lungo viaggio di nozze in mare. Destinazione Polinesia. Beh, i tre figli di Françoise devono andare a scuola e alla fine loro decidono di partire da soli, loro due con Joshua. Françoise non è un'esperta di vela, però è molto innamorata. È il 1963. L'ultimo giornale del 12 ottobre 1963 riportava la morte di Edith Piaf e di Jean Cocteau. Emozionati, ci allontanammo dal molo. A bordo del Joshua furono pronunciate solo le parole necessarie alla manovra. La mia decisione era stata ponderata attentamente e non l'ho mai rimpianta. Ma i mesi che seguirono furono tra i più difficili della mia vita. Era un cambiamento radicale. Vivere su una barca a vela 24 ore su 24 è tutt'altro che ovvio quando si è vissuti nello spazio dei grandi appartamenti. Concentrare tutto nell'universo chiuso di una piccola barca di 12 metri, d'inverno e con la burrasca, costituisce tutta un'altra realtà. E presuppone la feroce volontà di fare appello a tutte le proprie facoltà di adattamento. Queste sono le parole di Françoise, che in un suo libro di memorie racconta il suo vissuto, un vissuto che fa un po' invidia e un po' paura. I due nuotano nelle acque cristalline degli atolli polinesiani. Si amano per giornate intere e per tornare indietro decidono di fare la traversata Tahiti-Alicante, passando per Capo Horn. Andare veloce o lentamente, lascare o cazzare, tutto ciò non ha molta importanza. Ci dirigiamo verso un obiettivo che, nonostante non se ne parli mai, resta sempre presente: passare Capo Horn. Le nostre energie vi tendono in modo esclusivo. Consolidare e aver cura di barca ed equipaggio, di questo tutto che deve procedere più o meno velocemente e mai indietreggiare. Poi si vedrà. Poi è troppo lontano per me. Non posso, o forse non voglio immaginarlo. È curiosa questa impossibilità in mare di pensare ad altro che non sia il presente. Beh, una vera e propria impresa più che un viaggio di nozze. Stiamo parlando di 14.000 miglia senza scalo, con inimmaginabili tempeste, cavalloni altissimi, 126 giornate lunghe e faticose, con Joshua che al posto degli alberi aveva due pali telegrafici, perché secondo Bernard erano i più robusti in assoluto. I due sposi approderanno sulla terraferma 4 mesi dopo essere partiti da Morea, e Bernard si sente già pronto per un'altra impresa quando verrà invitato a partecipare alla mitica Golden Globe Race. Ogni amante del mare, il mare lo vive a modo suo. Anche noi in Italia abbiamo molti velisti, ed è con uno di questi, Andrea Mura, cagliaritano classe 1964, velista dell'anno 2014, che parliamo di mare. Buongiorno Andrea Mura, lei è un pluricampione italiano, lei ha vinto molte traversate in solitario. Io vorrei sapere che tipo di rapporto ha con il mare. Io sono praticamente nato in mare, uscivo in barca praticamente tutti i giorni, tutto l'anno. Questo mi ha permesso di acquisire una dimestichezza con il mare, è la mia materia, è la mia lingua, io parlo la lingua del mare. Che poi alla fine sia un mare sardo piuttosto che un mare oceanico, poco cambia, perché è sempre composto da H2O. Nel mio caso specifico, che non penso possa essere paragonabile a quello di Montessier, sono secondo me due tipologie molto diverse. Può sembrare strano, dice, ma in solitario lo stesso, poi sì, però lui ci andava da avventuriero, io ci vado da agonista. Cioè, per me andare in oceano con le mie vele che ho prodotto, la mia imbarcazione, con le mie conoscenze, andare a sfidare in casa francese i migliori oceanici del mondo, è per me una grande sfida. In più tutto questo in solitario, appunto da solo in mezzo al mare, è una doppia, tripla, quadrupla sfida. Mi piace essere là in mezzo e sono disposto a sopportare tutto, contro tutto. Non è uno sforzo, però è una sfida, e poi ti ritrovi là da solo. A un certo punto ti chiedi anche, ma chi me l'ha fatto fare, nei momenti più difficili, ma sono solo momenti, e in altri momenti pensi, caspita, fra poco, giorni o settimane arrivo e sarà tutto finito, tutto questo lavoro, questo sogno che dura così poco. Ecco, io così la vivo. Ma quindi è interessante, cioè un punto di vista un po' diverso rispetto a Moitessier. Quindi che cosa le insegna e che cosa le dà navigare da solo? Certamente tutto questo dà una grande sicurezza. Quando poi arrivi a terra e vivi problemi quotidiani della vita, problemi che per certe persone sembrano insormontabili, invece poi ti rimbalzano, perché dici, caspita, ma vogliamo parlare di problemi seri? Di quando ci trova là in mezzo in certe condizioni meteo, e quindi la vivi in maniera migliore, più serena. Ecco, la navigazione solitario ti fa capire quanto sia importante il valore della vita. Quindi ci sono uomini che sfidano il mare per agonismo puro, altri per puro idealismo, altri per sfida con se stessi. Bernard faceva parte della categoria di quelli che lo sfidano per ottenere qualcosa di assolutamente interiorizzabile. Eppure era squattrinato e appassionato, navigava solo per la purezza dell'atto stesso. Era una cosa sola con il suo catch, disegnato per lui, il Joshua. Ho imparato a convivere con l'essenziale, e so che solo con l'essenziale vale la pena confrontarsi, e questo ha completamente cambiato la mia attitudine nei confronti della vita. Alla fine di questo viaggio Non sono lo stesso di quando ero partito, ma un uomo diverso. Oggi Joshua è visitabile. Si trova ristrutturata al Museo Navale della Rochelle. È beffarda la sorte di questa barca che nel 1982 viene spiaggiata e distrutta da un tifone mentre si trova ferma all'ancora, proprio lei che ha affrontato monsoni e burrasche dell'oceano fermata da una spiaggia messicana. Moatessier, il profeta della ricerca di orizzonti dipinti di blu, ha scritto 5 libri. Io vi segnalo soprattutto Vagabondo dei mari del sud e La lunga rotta, editi da Mursia. Se volete invece scoprire la meravigliosa storia di Françoise, cioè la storia vista dall'altra parte, che peraltro Françoise è diventata poi una velista solitaria, leggetevi 60.000 miglia a vela, io, Bernard e il mare, sempre di Mursia. Ci sono storie spesso conosciute di persone normali che nella loro vita hanno saputo dare un colpo d'ala, hanno saputo volare in alto, fare cose che hanno lasciato un segno. Beh, se volete mandarci i vostri commenti o segnalarci vite che vale la pena raccontare, fatelo. Per farcele conoscere scrivetemi a Il Falco e il Gabbiano @radio24.it. A domani. Let it ride far behind. And it seems you and I are like strangers, a wide ways apart as we drift on through time. He said it's hard enough, you're fine. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Del Rosso.